Ne abbiamo parlato con il filosofo Giacomo Maramao. Dall'elezione di Papa Francesco, la Chiesa ha compiuto un atto straordinario di anticipazione, ha scavalcato la stessa prospettiva dell'Unione Europea per guardare al mondo, dunque ha rivisualizzato il problema dell'Europa in un contesto globale da analizzare in maniera critica come il Pontefice ha fatto. Comunque la visione della Chiesa è sempre stata universale. Sì, però la Chiesa ha compiuto un rinnovamento rispetto al quale tutta la politica europea e in parte anche quella italiana ancora è molto indietro. Cioè, con Papa Francesco la Chiesa si ripropone come universale, però in un senso operativo, molto più intensamente politico rispetto a quello che fanno i partiti europei e i loro rappresentanti. In questo cambiamento c'è anche una Chiesa più vicina ai cittadini rispetto alle istituzioni europee, quindi rispetto anche alla politica? Assolutamente sì, la Chiesa in qualche modo è in grado di parlare non soltanto ai cittadini di fede, ma anche ai laici, sollevandosi non soltanto da una situazione di corruzione e di scandalo, ma addirittura riuscendo a indicare la prospettiva di un modo diverso di affrontare i problemi del mondo nel XXI secolo. Donatella Gori, GR3.